piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Allora, adesso ci avviciniamo a Pasqua. Vi faccio gli auguri anticipati, ma è un periodo delicato. Nessuno pensi di rilassarsi, perché rischiamo di perdere tutto. Restiamo in casa, rimpariamo a fare pranzi come quelli che ci venivano offerti dalle nostre madri, dalle nostre nonne. Rimpariamo anche a fare i dolci a casa, rimpariamo a fare le pastiere, ecco. Impegnatevi. Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno una sozzeria, ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare pure dolci in casa. Ma rimaniamo chiusi in casa se non vi è un motivo davvero urgente per uscire, e cioè approvvigionamento alimentare e farmacie, oltre che attività lavorative essenziali. Oramai è diventato un personaggio De Luca, e in questo caso non si è smentito. Questi sono gli auguri di Pasqua che fa ai suoi concittadini, in linea perfettamente con quello che è l'humus interiore familiare di ogni essere umano alle nostre latitudini quando è Pasqua. Dice: fatevi le pastiere a casa, anche se saranno una schifezza, non ve le andate a cercare fuori. Perché? Perché c'è di mezzo la vita. Però coglie un senso molto profondo legato al periodo pasquale. Ora, non voglio assolutamente fare riferimenti a momenti spirituali o liturgici, anche perché l'abbiamo ampiamente fatti già in una trasmissione passata. Voglio dare senso, profondità e spessore a quello che ci manca in questi giorni. Lo sappiamo bene tutti quello che ci manca. Ci mancano un'infinità di cose, inutile fare l'elenco. Però questo è un momento molto particolare. Non perché sia Pasqua, perché è la Pasqua di Resurrezione, perché oggi è Venerdì Santo. Questo ha un profondo valore nella nostra tradizione culturale, spirituale, quella del nostro paese, quella della civiltà a cui apparteniamo, bene o male. No, però la Pasqua c'è qualcosa di più profondo, di più intimo. Pasqua è una festa che, nel momento in cui le feste vengono percepite e ci impregnano attraverso tutte le nostre capacità e possibilità avere i sensi impegnati, è una festa che ha un profondo significato quando si è piccoli, quando si è bambini, come lo è il Natale, lo è la Pasqua. L'aspetto indimenticabile della nostra Pasqua è l'aspetto fanciullesco. Tutto quello che viene dopo fa parte di una consuetudine, di una tradizione, di una presa di coscienza magari più razionale. Ma la vera Pasqua è quella che noi ricordiamo, è la nostra impressione indelebile, è quella di quando eravamo bambini. In ognuno di noi la Pasqua è profondamente, anche se non consapevolmente, legata a dei ricordi fanciulleschi, che sono ricordi molto forti, molto sensuali, proprio perché la Pasqua cade, a differenza del Natale, che è freddo, che è rigore, che è camino acceso, che è ceppo, che arde, che è notte, che è buio. E non a caso il Natale è legato al solstizio invernale, a un momento molto particolare di attesa di luce che dovrà tornare. No, la Pasqua è proprio nel momento dell'esplosione della primavera, ce la ricordiamo da bambini questa Pasqua, non possiamo dimenticarla. Era veramente un momento di gioia. Io vorrei questa mattina che affondaste le radici nei vostri ricordi fanciulleschi legati alla Pasqua. Proprio chiudete gli occhi un attimo, avremo la modalità dei 30 secondi per esprimerlo, e quello che noi faremo questa mattina, oltre un'operazione di introspezione personale, sarà un'operazione che ci permetterà di regalare agli altri dei frammenti di ricordo che andranno a ricostruire quello che ci manca in questi giorni. In questi giorni ci mancherà moltissimo l'odore della Pasqua, il sapore della Pasqua, che al di là della festa, della attribuzione che noi diamo al periodo pasquale, è qualcosa legato a un risveglio della natura, è qualcosa legato a una piacevolezza di sensi. Volete che vi faccia un esempio, ve lo faccio individualmente, personalmente, poi ognuno dovrà, se vorrà, se naturalmente se la sentirà, in questo momento attraverso 30 secondi chiamarmi, è legato proprio alla propria personale esperienza locale, ambientale, in ogni regione d'Italia, in ogni comune d'Italia, in ogni frazione d'Italia, in ogni recesso urbano o luogo metropolitano, ci sarà stata una Pasqua di qualcuno che mi ascolta e sarà stato bambino legato ad alcune sensazioni. E vi dico la mia, io la Pasqua l'ho passata in una fase della mia vita in cui vivevo in campagna, vivevo in contatto diretto con quella che era l'attività agreste. Perché? Perché mio padre coltivava la terra, avevamo delle persone con noi che coltivavano la terra e quindi la Pasqua era legata comunque a qualcosa di molto arcaico, molto antico. La Pasqua nasceva con un profumo, che era il profumo della mattina all'alba in cui si alzavano le signore mogli dei contadini e venivano tutti a casa nostra e preparavano le pizze di Pasqua, che era una tradizione tipica perugina, oggi la chiamano la pizza di Terni, ma era la pizza di Perugia. Erano delle grosse torte che si facevano con il formaggio, con dei pezzi grossi di formaggio. A noi bambini non era permesso alzarsi all'alba quando le signore cominciavano a impastare e la pasta lievitata era sopra una madia da giorni prima. Era bella, grossa, soffice. Noi ci alzavamo e spiavamo le donne che facevano la pasta. Facevano la pasta mettevano in delle teglie, che erano delle teglie di alluminio, unte con lo strutto animale, capito? E poi fuori il forno all'aperto, che era un forno all'aperto, e già da ore si stava arroventando. A noi bambini era permesso poi usare la raschiatura della tavola in cui erano state fatte le torte e con questa pasta residua potevamo costruirci un omettino e una donnina fatti di pasta che venivano infornati. Mi ricordo che il momento della massima malizia per noi era mettere il pisellino e le tette a questi due fantocci di pasta che poi avremmo mangiato il giorno di Pasqua. Ma fare le torte, fare le pizze, preparare i dolci, naturalmente era tutto interdetto all'assaggio, perché non si poteva toccare nulla, si doveva mangiare soltanto la mattina la domenica di Pasqua, perché allora la vigilia era stretta. E quindi la cosa che facevamo nella giornata di oggi, o lo facevamo ieri, non ricordo bene se era il giovedì o il venerdì, si portava tutto in parrocchia a benedire. Allora c'erano questi grossi cesti in cui c'era una torta di Pasqua, l'omino col pisellino, l'ovetto di Pasqua, le uova sode dipinte con i colori, il vino, l'olio, il sale, si portava tutto, dei grossi cesti, ci aiutavano queste signore, se li portavano in equilibrio sulla testa, noi bambini le seguivamo portando le nostre cose, e veniva benedetto, non so perché, ci sembrava tanto bello. E poi passava ancora una giornata o due nell'attendere speranzosi di poter assaggiare quello di cui sentivamo soltanto l'odore. Ecco, tutto questo voglio che sia possibilmente raccontato. Io continuerò poi nel mio racconto, vi darò un po' di senso di quella che è stata la mia infanzia perugina, perché è una cultura poco conosciuta, mentre della pastiera tutti ne sanno, ma della torta di Pasqua ne sanno poco, che si mangiava con il capocollo naturalmente, che è quella che viene chiamata lonza. Quindi pronti con 30 secondi, quali sono i vostri ricordi fanciulleschi di Pasqua? Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800 24 00 24. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time. Allora, 800 24 00 24, mi sembra che la mia richiesta sia stata chiara. Dovete dare fondo, spremere la vostra anima, andare alla radice dei vostri ricordi olfattivi, gustativi, di rumori, di silenzi, di festività pasquali, e dovete regalarli alle altre persone che ascoltano. Così ricostruiremo comunque la mappa di quello che ci manca in questi giorni, ridaremo una parvenza digitale a ricordi che magari oggi sono appassiti e scomparsi nelle pareti sempre uguali che contempliamo ogni giorno. Ringrazio intanto, perché poi mi scordo sempre alla fine, preso dall'ansia della chiusura la trasmissione, le persone che mi permettono di andare in onda. A Milano è Peter Bescapè, in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, a Roma c'è il professor Alessandro Chiappini, è chiuso a casa sua Fabrizio Intonti e poi Sandro Fortunati, che è la mente tecnica che ogni giorno mi dà consigli preziosi per andare in onda nella maniera migliore. Cominciamo con Davide da Firenze, pronto? Sì, pronto, Davide. Buongiorno Nicoletto. No, scusa, Claudio da Firenze, Claudio da Firenze. Allora Claudio, a 30 secondi, chi è che parla? È Claudio? Claudio da Firenze. Claudio da Firenze, allora a 30 secondi esprima, sprema bene e dia in tutta la sinestesia possibile il suo ricordo, poi magari lo commentiamo. Pronto? Via. Allora, ricordo serissimo delle mie scuole elementari. Ricordo molto breve, è stato stroncato dalla fatuità della linea telefonica. Vediamo Rosanna, provincia di Venezia, se riusciamo a essere più fortunati. Buongiorno, pronto? Salve. Il mio ricordo di Pasqua è legato... Aspetta Rosanna, devi partire con 30 secondi, vai. Il mio ricordo di Pasqua è legato al mio papà, che il giorno di Pasqua di parecchi anni fa, io avrò avuto 10 anni, ha invitato al pranzo pasquale nella mia famiglia un pastore che passava con le greggi vicino alla nostra casa. Noi abitiamo in una zona rurale, ogni tanto si vedevano le greggi arrivare e lui ha avuto questo gesto non assolutamente condiviso, nel senso che ha preso l'iniziativa, e la mia Pasqua è con questa persona che ha accettato ben volentieri questo invito di condivisione. Mi piaceva avere qualcosa di più legato ai sensi. Se le dico qual è il sapore della Pasqua, si ricorda di quando era bambina. Per me era il sapore irraggiungibile della pizza di Pasqua che trasudava strutto, che potevo prendere soltanto la mattina. Eravamo digiuni, sfiancati finalmente. La pizza di Pasqua al formaggio, il capocollo appena tagliato, l'uovo di Pasqua, ce n'era uno per due fratelli naturalmente, si divideva a metà e le sorprese facevano schifo. Per lei qual è? Per me è comunque legato alla cucina, al preparare, quindi l'agnello veniva fatto al forno con le carote, le cipolle, le patate, questo grande lavorio in cucina con i sapori e i profumi connessi, anche per me. Anche per lei c'era la vigilia, cioè ci si arrivava con l'acquolina alla bocca di giorni e giorni? Non tanto, tranne il venerdì santo, il resto era proprio legato al giorno di Pasqua, ma non venivamo da giornate di digiuni, ecco, no? Certo, a me non mi hanno proprio fatto mancare nulla, io mi ricordo. Che questa madia con sopra le dolcezze, le pizze, le uova di Pasqua, man mano si accumulavano e noi niente, è digiuno, bisogna stare a digiuno. Purtroppo da me si apriva l'uovo prima di Pasqua. No, da noi era proibitissimo, ci avrebbero tagliato le mani. Noi potevamo al massimo scuotere l'uovo e cercare di capire cosa ci fosse dentro, per dividerci, io e mio fratello, il piacere di indovinarlo. Davide, provincia da Milano. Pronto? Pronto? Vai, 30 secondi. Sì, per carità, tutto bello, la colomba, l'uovo di cioccolato, quant'altro. Però, insomma, non di soli ricordi si vive, no? Non possiamo fare come il fauno di Mallarmé che rimpiange per sé tre due ninfe che le sono sfuggite dalle mani. La Pasqua è anche altro al giorno d'oggi. E il fatto di passarla in solitudine per alcuni è una tragedia. La realtà è che la figura che noi celebriamo l'ha proprio vissuta in solitudine, immerso nell'angoscia e nella tristezza. Cose che oggi sono considerate spauracchi. Questa è la Pasqua. Sì, non di soli ricordi si vive. Sì, ho capito, lei me lo insegna anche il pomeriggio del fauno, però oggi era la richiesta di ricordi, se lei ha azzerato i suoi ricordi è un problema suo, vive molto male sinceramente, ma non sono io che devo giudicarla, e se lei deve ribadire la tristezza di oggi fa concorrenza a Manera, che ne fa la cifra artistica del suo essere un comico, un clown triste. Mi dispiace che siamo andati a scarnificare il suo profondo stato di afflizione, però nemmeno a me mi sembra una cosa detestabile, e di solito sono una persona molto pessimista, parlare delle mie pizze di Pasqua, del profumo dei pomodori che si stavano maturando, dei cretti nella terra che in questo periodo erano fantastici, delle nostre corse attraverso i campi con l'erba che aveva il profumo particolare, parlo di erba medica, con l'odore delle galline quando si andava a prendere l'uovo nel pollaio, lo strame delle galline che è insopportabile, assume un profumo poetico quando quando si va a prendere l'uovo caldo sotto la gallina, e appena uscito dalla gallina era fantastico quell'uovo. Sono ricordi, lo so, siamo esseri umani, viviamo anche dei ricordi, viviamo anche del nostro passato. Il nostro passato diventa un ricettacolo preziosissimo quando il presente non ci dà spunti sufficienti. Claudio da Firenze. Buongiorno. Allora vai, 30 secondi. Allora, il mio ricordo è un ricordo tenerissimo delle mie scuole elementari. La maestra ci obbligava a scrivere la famosa letterina di auguri che conteneva le più improbabili promesse di bontà futura, di amore per i genitori, eccetera, e l'ansia del momento in cui il piatto veniva scoperto e veniva trovata la mia letterina. È vero, lei mi ha tirato una fuori un altro ricordo, sì, perché la letterina non era soltanto quella di Natale, anche a Pasqua c'era la letterina. Ma certo. I cartoncini a letterina si andavano a prendere nell'unica merceria che c'era, nella frazione Umbra in cui vivevo, erano terribili, erano glitterati, c'erano tutti agnellini, paperelle, i rigori, sì, erano terrificanti, e lì bisognava condensare l'ipocrisia nei confronti dei nostri genitori. Cioè, li vedevamo tutto il giorno, non è che avevamo orfanelli abbandonati a quei tempi, con la famiglia ci stava infilato dentro dalla mattina alla sera. L'autoflagellazione, il perdono per la marachella ultima, e quindi la richiesta di perdono. Io devo dire, fino all'età detestabile dell'adolescenza autodistruttiva delle nostre diottrie, non avevo cognizione cosa fosse il peccato, la colpa, che avevo fatto mai di male, che potevo fare di male. Un ragazzino che viveva in campagna con il fratello, giocava con gli altri ragazzini che camminavano spesso a piedi scalzi, di cosa potevo sentirmi in colpa? Eppure anche lì c'era bisogno comunque di un po' di flagellazione. Mi piace. Shahid, provincia di Udine, vai. Buongiorno, mi sente? Certo, benissimo. Ascolta, io nel 79-80... Dal 79-80 sono stato adottato da una famiglia perugino che abitava in campagna. Mi ricordo la festa di Pasqua, che era meravigliosa, vicino al 21 marzo, perché noi facciamo Capodanno, che faceva quella torta con formaggio abbondante con uova. Era da mangiare, da divertire e dimenticare la guerra in Iran con l'Iraq. Mi sembra che è abbastanza sufficiente di essere contenti. Ah, quindi la nostra pizza di Pasqua, che io ricordo come il più pregnante, il più forte. La torta di la torta. Sì, vabbè, la torta, sì, quella col formaggio, eccolo. La torta di Pasqua, la chiamavano la torta, ha ragione per lei. Crebella, eccolo. Gialla, grossa, con questi pezzoni grossa. Di formaggio. Pieno enormi. Di formaggio, enorme. Era, diciamo, trasudava tutto al suo esterno. E specialmente quelli che erano famiglie contadine facevano abbastanza robusta, direi. Lo so, poi la cucinavamo noi nel forno a legna, perché c'era soltanto sì, quello. Sì, uscivano sì. Fuori che era un profumo che ti trapassava. È stupendo. E per lei stupendo. È stato, diciamo, il dolce, il ricordo piacevole che si sono apposto più all'ormone. Più bello che nella mia vita, che sì, avevo 25 anni quella volta. Cosa mangiava? Lei non poteva mangiare capocollo perché era come fatto no, con maiale. Come no? Ah, con prosciutto. Beh, perfetto. Prosciutto e capocollo, bellissimo. Se no anche, diciamo, l'erba, si diceva che in realtà erano della cicoria. Avrei preferito sempre con capocollo, che è veramente tagliato, fatto in casa sempre da loro, e che era una cosa stupenda. Era un capocollo nerastro, perché era fatto da un musulmano. Mi sembra un po' vabbè, musulmano, cioè c'era la guerra alle spalle, non credo che qualunque dio a lei si possa rivolgere si senta offeso se mangiava la torta col capocollo, siamo sinceri, non c'è dio che può offendersi per chi mangia la torta col capocollo, diciamo la verità. La frustata me ne sono risparmiato, però va bene, ci fermiamo un istante e a tra poco continuate con i vostri ricordi. Il pranzo di Pasqua da soli, praticamente una certezza per noi che viviamo la quarantena da soli, appunto, e anche però una necessità doverosa in questa fase. Come affrontare una giornata che normalmente è di condivisione, si vive in compagnia, in solitudine? Cominciamo dal cibo, che sarà l'ingrediente fondamentale della giornata. Ci sono due approcci al menù di Pasqua da soli, cioè 1. Cucinare, 2. Ordinare. Io personalmente ordinerò. ha consigliato un imprescindibile, cioè l'uovo, che sulla tavola di Pasqua deve esserci perché è un simbolo di, vita, per di rinascita. Scusate, è partito questo Pasqua, delle signore che cucinano Pasqua, so che era in scaletta, questa era Alessandra Dal Monte, dal Corriere della Sera, benissimo, ma dei tutorial di come si cucina è un'altra chiave rispetto a quella che vogliamo toccare questa mattina. Questa mattina non vogliamo nessuno davanti a una webcam che ci racconti cosa bisogna fare, dobbiamo attingere ai ricordi, da ricordi della Pasqua di noi fanciulli, perché è fatta di odori, di sapori e di qualcosa che oggi può ricostruire quello che ci manca. Potremmo anche aver ordinato l'agnello arrosto, ieri stavo al supermercato, una signora telefonava per sapere cosa c'era di pesce e se c'erano i calamari, perché voleva preparare un pranzo di Pasqua adeguato, e la signora dice: signora, quello che dico che c'è adesso, che senso ha che c'è una fila di 2 chilometri davanti, a tempo che lei esce di casa e viene qui non ci sarà più. Silvana, provincia di Firenze, pronta? Sì, eccomi. Allora, 30 secondi, vai. Pronto? Sì. Tanto è un miracolo che io sono riuscita a prendere la linea questo momento. Punto? Sì, pronto? Sì, vada, vada. Sì, no, racconti, io per quanto riguarda il mangiare, la torta pasqualina e il capretto. Capretto con carciofi e i famosi carciofi di Albenga, gli asparagi violetti, che nessuno li conosce, sono buonissimi. E poi quello che volevo è una curiosità, che noi il giorno dei sepolcri si ascoltava solo musica classica. Mi sente? Pronto? Pronto, musica classica. Silvana, lei ha preso la linea per miracolo, però deve capire anche le modalità di questa missione. Lei ha 30 secondi, quindi deve dare un ricordo. Non intervengo in questi 30 secondi. Lei ascolta la musica classica al giorno dei sepolcri. Abbiamo capito. Mi piace più capire qualcosa che attingeva al passato, non al presente. Io il giorno dei sepolcri, sai cosa si faceva? Si mettevano le patate, mi sembra, un'erba particolare dentro un vasetto con l'acqua e l'ovatta, e si lasciavano al buio crescevano dei lunghi e sinistri vegetali. Vegetali, sì. E questi non so perché il giorno dei sepolcri tiravamo fuori, non so che era una cosa. Il grano, ecco, o la veccia, se c'è una cosa del genere. Sì, veniva fuori grano. Questa sorta di pianta biancastra cadaverica, che però sì, era qualcosa che ricordava i sepolcri. Mi è venuto in mente adesso mentre parlava lei. Si metteva al buio, vero, in un barattolo vuoto di vetro. Sì, con io dentro non l'ho mai l'acqua. Fatto, però ho sempre visto questi sepolcri e mi spiegavano che era. Sono anziana io, cioè, vabbè, anch'io. Però ero troppo bambina per ricordarmi come si facesse, perché lo facevano gli altri. E si faceva così, si prendeva un barattolo vuoto di vetro, ci si metteva dell'ovatta e dell'acqua, ci si metteva questa granaglia dentro. E dopo un po' al buio veniva fuori una sorta di polipo da incubo, certo, che era una pianta biancastra. E che non so, in qualche maniera devo ricordare i sepolcri. Chi ha qualcosa di più su questa tradizione me la dica magari. Manuela, provincia di Udine, pronta? Sì, pronto. Sì, il mio Vai, ricordo 30 secondi, secondo le regole. È un ricordo piuttosto triste, risale circa 21 anni fa. Cioè, io quando penso alla Pasqua penso a un giorno in cui ero fortemente depressa e sono figlia di separati, premetto, per cui mio padre abitava da un'altra parte e non mi sentivo, non sono andata a fargli gli auguri. Lui ha chiamato e mi ha detto: ti aspettavo almeno per gli auguri. E gli ho risposto: non me la sentivo, non sto tanto bene. E mio padre, neanche un mese dopo, è morto, e quindi io neanche non ci parlavo più, quindi ho questo. Penso Pasqua, penso quel giorno, lo sento come. Sento la depressione di quel momento. Mi spiace che i ricordi piacevoli che avevo chiesto di evocare siano sovrapposti, ma è normale, ognuno ha la sua equazione esistenziale. Da questo ricordo del padre che annuncia, instilla il senso di colpa perché non si è venuta da me e dopo un mese muore. E questo naturalmente segna una persona per tutto il resto della sua vita. I genitori dovevano pensarci, mi ricordo mio padre. Un giorno dette un foglietto a mio figlio che era piccolo, aveva avuto 10 anni. Dice: dalla tuo papà. Lui naturalmente la lesse, c'era scritto: quando muoio voglio che mi cremate, le mie ceneri verranno sparse nei campi. E mi ricordo mio figlio Filippo grande piangeva disperato. Ecco, lo trovai un atto di sadismo, perché prima cosa poteva lasciarselo scritto da qualche parte, avrebbero fatto lo stesso. Perché affidare a un bambino un messaggio così funereo? Io voglio che i miei figli nemmeno abbiano il sentore di quando io morirò e mi ricordino di quando ero vivo. Basta, non si può lasciare queste tracce indelebili, queste ferite della propria sofferenza e del rimorso del fatto che la generazione nuova logicamente deve sopravvivere con la vecchia. Rosa, provincia di Udine, pronta? Allora, il mio ricordo è marchigiano, e la festa per raccogliere i tulipani rossi che spontaneamente crescevano per abbellire la casa e per portarli in chiesa o altri posti. E dopo per le ciambelle, la gioia dei bambini era mettere i pallini colorati sopra queste ciambelle bianche che venivano imbiancate col bianco d'uovo una volta che si sono cotte, perché è una pizza piccola rotonda tagliata attorno attorno in modo che cresce tipo il primo cerchio verso il basso e il secondo verso l'alto, e dopo venivano belle e buone, insomma. E dopo, ecco, lei in questo momento mi ha risvegliato una Madeleine assurda. C'è una torta legata alla mia fanciullezza che ancora rappresenta il desiderio onirico più profondo del mio figlio maggiore sotto Pasqua, che è la Ciaramicola Perugina, un nome che vi farà ridere se non siete di quelle parti. È una torta infarcita di alkermes, quindi rossa, rosa, coperta da chiara d'uovo sbattuta, quindi tipo quella che dice lei, con tutti i confettini, che a me la fanno soltanto a Perugia e si mangia soltanto a Perugia in questo periodo. Io sarei disposto a sfilare la quarantena se non ci fossero le forze armate con i cannoni all'uscita di Corso Francia, per andare alla pasticceria Ponte San Giovanni e comprarvi una ciaramicola. Proveremo a farla a casa io e Filippo in questi giorni, ma mai verrà come viene quella fatta sotto. È una torta da pazzi, folle, bianca con la chiara d'uovo sbattuta sopra e rossa dentro, questi confettini sopra, e si chiama ciaramicola, un nome che non vuol dire niente, ma a noi, per noi vuol dire molto, perché è il sapore dolce sulla Pasqua. Patrizia da Bologna, pronta? Ok, allora, la mia era una famiglia del Basso Polesine ed era una famiglia numerosa di 20 persone, per cui il giorno di prima di Pasqua tutti noi bambini, noi nipoti, dovevamo dipingere le uova sode che venivano poi rotte il giorno di Pasqua. E l'altro ricordo è il Venerdì Santo, quando la mamma ci bagnava gli occhi al suono delle campane e le scarpe di vernice la domenica, le scarpe nuove, perché eravamo una famiglia molto povera e solo di Pasqua potevamo avere o Natale e qualche abbigliamento. Ecco, questi sono i miei ricordi. Allora, la tintura delle uova sode me la ricordo anch'io. Le coloravamo con dei colori velenosi, perché quando eravamo piccoli, esatto, noi non c'era l'idea, esatto, che i colori dovessero essere ecologici. E quando dopo giorni e giorni si potevano mangiare, perché si facevano le uova sode almeno 4-5 giorni prima della data del mangiarlo, levavi la parte esterna del guscio, verdi. Brava, erano diventate tutte verdi e molti colori trapelavano, quei velenosissimi colori, esatto, anni 60-70, esatto, a base di elementi tossici, rimanevano, esatto, impregnate col nostro disegno. Noi mangiamo cose orribili, noi siamo stati cresciuti con formaggini che erano, diciamo, si diceva fatti con gli zoccoli dei cavalli, cose terribili, eppure eravamo felici. Più ci inquinavamo, più ci intossicavamo, pensavamo che quello era il vero sapore del boom economico, che era fatto di cose sintetiche. Vita da Roma, sei pronta? Pronta, buongiorno. Vai. Ricordo la festa di Pasqua, cominciava una settimana prima con un mio zio che cominciava a fare delle cassate siciliane in ordine crescente, e il giorno di Pasqua tutta la famiglia unita con dei tavoli, e alla fine si portava questa grande, la più grande cassata con una rosa al centro, che mi è rimasta in mente. Per me la Pasqua era questa tavola e queste cassate infinite, 10-12 cassate, e il giorno di Pasqua la più grande si metteva a tavola. Beh, questa è bella, questo è molto legato comunque a un uso locale. La cassata profumatissima, deve essere fresca, sì, se no naturalmente sì, la ricotta va male. Con la rosa sopra, la più bella cassata, pensa che bella cosa. Lei si ricorda questa rosa appoggiata sopra la ricotta, sopra la glassa, sopra i candini? Sulla glassa, dove c'era i mandarini, le arance, la zuccata. E poi al centro c'era un mandarino. Ma ve le schizzavate voi le bucce del mandarino negli occhi o si fa solo a Natale quello? Ma quello si faceva solo a Natale. Ah, solo a, allora, lo schizzo del mandarino nell'occhio si fa solo a Natale. Era a Natale perché i mandarini c'erano a Natale. A Pasqua c'era il mandarino, come si chiama, glassato. Ah beh, è una cosa speciale per voi. Quello speciale che si metteva al centro con una rosa di Ostia. Questa è bella, la rosa sulla cassata. Immaginate un attimo, questo dolce già in sé è qualcosa di fuori da ogni immaginazione, di bellezza, ci appaga soltanto guardarlo, in più ci mettono una rosa sopra, per esagerare. Sì. Caterina, da Roma, sei pronta? Buongiorno signor Nicoletti, vi faccio tanti auguri e bene a tutti. Ricordo parti con la storia, vai. Allora, praticamente quando ero ragazzina, avevo 5 anni, ricordo che mio fratello era fidanzato e da noi si usava che il fidanzato per Pasqua portava l'agnellino di mandorla con l'agnellino e più la bandiera sopra, e la fidanzata ricambiava con un dolce che si fa da noi nel Regino, che si chiamano gute, con sopra le uova a forma di A, tutti i coriscioletti intorno. Era una cosa meravigliosa e questo è il più bel ricordo che io ricordo. Vi faccio tanti auguri a tutti. Buona Caterina, Pasqua, lei non ha possibilità. Vabbè, è andata per auguri. Caterina è contenta, è emozionata. Ci ha raccontato il dolce calabrese, l'agnello, la pasta di mandorle. Vedete, è molto legato al ricordo del cibo, ma è una misura, è una dimensione del cibo diversa di quelli che di cuochi televisivi, che odio, che è l'uccisione, è come la pornografia ti ammazza l'arrapamento. Vedere i cuochi in televisione ti ammazza la voglia di mangiare, è qualcosa del genere, almeno per me. Invece questa rievocazione di ricordi legati al piacere dei sensi è qualcosa di totalmente diverso. Luca da Bologna, buongiorno, sei pronto? Buongiorno, prontissimo. Vai, 30 secondi, vai. Il ricordo di Pasqua della mia infanzia è legato al salame e alle uova sode. Era una tradizione che credo che arrivasse dal nonno, che non ho mai conosciuto. La mattina di Pasqua ci si lavava gli occhi con l'acqua in cui erano cotte le uova sode, benedette ovviamente, e poi si doveva mangiare questo salame infinito, molto, molto aglioso, e bisognava mangiarlo perché sennò non si aprivano le uova di cioccolato. Quindi io e mia sorella eravamo costretti a mangiarci questo salame agliosissimo pur di aprire le uova di Pasqua. Diciamo, c'era una sorta di ordalia: se volevate mangiare l'uovo di cioccolato, dovete mandarvi giù il salame ai 7 agli. Sì. Era imprescindibile io odio l'aglio per mio padre. In età matura odio l'aglio, però vengo da una regione anch'io in cui l'aglio si mangiavamo pezzi d'aglio interi spalmati sulla bruschetta, quindi figuriamoci, ho avuto anch'io un'infanzia agliata, oggi se sento l'aglio soltanto a distanza scappo via. La mattina era qualcosa di impossibile, però era obbligatorio, mio padre ci teneva tantissimo. Sì, perché c'era questa idea che disinfettasse, faceva bene, l'aglio disinfetta, e quindi giù aglio a tonnellate. Faceva meno caso agli odori personali, non ci si faceva caso. Oggi siamo attenti a tutto, oggi mi accorgo se una persona ha cambiato colonia, è cambiato profumo, me ne accorgo in un nanosecondo. Allora figurati, cioè, zaffate d'aglio, ascellate fulminanti, i piedi anche alle mie fanciulle fidanzate, mi ricordo, non avevano proprio questo profumo di fresco. Ma perché ci si lavava meno, ci si faceva meno caso. Oggi siamo molto più attenti, io preferisco oggi. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog 800 24 00 24, stiamo raccontando i nostri ricordi di Pasqua. Fatelo con disincanto, fatelo senza pudore, ma fatelo con la consapevolezza e fare un regalo anche a quelli che ascoltano. Silvia, provincia La Bolzano, non voglio far perdere tempo, voglio mettere più ricordi possibili. Silvia, sei pronta? Sì, prontissima. Vai, 30 secondi. E buongiorno, il mio ricordo di Pasqua è di quando ero bambina e qui a Bolzano la mia nonna preparava un cestino con adagiati il coniglietto di cioccolato e gli ovetti, l'Osterhasse, che era nascosto in questo giardino adagiato appunto su questa paglia, in questo cesto, e io e mio fratello dovevamo scovarlo e per noi era una grande avventura, e era proprio il coniglio che l'aveva nascosto. per cui vivevamo questa avventura in questo giardino, che in realtà è un fazzoletto, e quindi questo ricordo caldo e sì, e diciamo, i piccoli insomma. Giardini sono i luoghi dell'impossibile in cui si sono scatenati tutti i nostri ricettori verso il mondo, dai fiori di campo, esatto. I fiori coltivati, la ghiaia dei vialetti, le fontanelle, le mura ammuffite, dei piccoli giardini delle nostre fanciullezze. Noi abbiamo acuito il desiderio comunque di campionare il mondo che ci circonda. Ognuno di quegli odori, ognuno di quelle giornate passate a guardare, nel mio caso una pianta di glicine che era in una sorta di muraglia che mi isolava con il mondo civile, perché noi stavamo chiusi dentro, ma perché? Perché eravamo bambini, era pericoloso e via dicendo. Ecco, io mi infilavo dentro quel glicine e questo ricordo assolutamente non mi ha mai abbandonato. Quindi è interessante. Senta, sui coniglietti, una domanda. Io mi hanno sempre messo molta inquietudine, tanto che io qualche anno fa, in maniera scellerata, feci un video su YouTube in cui con una mannaia li decapitavo. Ecco, da che origine sono? Proprio sono tirolesi come origine, una cosa che viene da quelle parti, il coniglietto di cioccolato. Ma so che è una cosa tipica di queste parti, che si va a cercare con questi vestiti anche molto tipici, no? Questi Gendel. Per noi sì, per noi è una cosa un po' così altoatesina, però in realtà l'origine vera e propria non lo saprei. Penso siccome a me non mi appartenevano, mi hanno sempre inquietato. Per me il coniglio era, ahimè, quello che si macellava con l'ammazza coniglio, che era il colpo dietro la nuca, e ci davano la pelle per giocare e il coniglio si mangiava con le patate. Non so che questo darà molto fastidio a molti, ma così siamo nati noi. Si chiamava ammazza coniglio proprio perché un colpo si dava dietro la nuca e quando uno dava lo scappellotto si ci ha dato un ammazza coniglio. Antonietta, provincia di Verona, pronta? Abito a Verona, ma ho ricordi di quando abitavo a Treviso. Vai, il venerdì 30 secondi. Santo si preparavano i bicchieri con la candelina da mettere sulle finestre quando passava la processione. Si andava a cercare la creta, si preparava la scodellina, si infilava la candela e poi si preparavano con la carta rossa, le varie carte colorate, il bicchiere, e quando passava la processione al Venerdì Santo si accendevano tutti i lumini. Altri ricordi di Pasqua ne ho altri, ma questo è quello che più adesso non ci sarà ovviamente più in nessun paese. Vero, adesso io me le ricordo anch'io, facevamo questi lumini con la luce e l'odore della cera della candela me lo ricordo. Mi ricordo anche le candeline, quando il prete veniva a benedire casa a Pasqua e ci portava diciamo santine e cose varie, si davano anche delle candeline fine che le accendevamo quando c'era il temporale. Questo uso pagano, il prete portava le candeline a Pasqua che si mettevano sempre dietro l'olivo benedetto attaccata a qualche parte. Quando c'era il temporale si andava sul davanzale e si bruciavano. Pensate che retaggio arcaico e pagano siamo cresciuti anche noi. La candelina, me ricordo, è impossibile buttarle via, si tenevano nel cassetto, erano benedette. Quando pioveva si accendeva questa candelina, pensi un po'. Gianni da Treviso, pronto? Pronto, dottore, buongiorno. Mi ha fatto venire in mente... 30 secondi. 30 la chiamavamo, ecco, via, subito. Campagna Veneta, anni 60, le grandi case della Campagna Veneta e... Prima di Pasqua si preparava un grande impasto per fare la fugassa, questo dolce tipico della nostra zona che veniva cotto nei forni del pane dopo il pane prima che si raffreddassero. Ecco, questo è il ricordo che ho della Pasqua, ecco, un profumo che ancora sento. E la candela seriola di cui lei ha parlato, che da noi della nostra zona si chiama ancora così, d'abitudine. È così la candelina che serviva per il temporale. Per il temporale, ecco, contro la grandine, dottore, no? Perché il temporale, da noi quando c'è il temporale accendi la candelina. No, l'odore della focaccia, che da noi è una focaccia anche con il rosmarino dentro. Mi ricordo, un ricordo recente, 5-6 anni fa, una volta feci un gesto che mai più dovrei fare nella vita, volli tornare dalle mie parti arcaiche sotto Pasqua e mi avventurai su per la salita che da Spello va verso il culmine del Subasio e scende verso Assisi. All'altezza di Colle Pino mi fermai, che è un piccolo paese di pietra, totalmente deserto, era il giorno di Pasqua, solo un matto come me, me l'ho fatto accompagnare, mi ricordo, da un'amica, dico ma andiamo un giorno a Perugia. E mi misi affacciato a una balaustra di pietra di un giardino e mi colpì immediatamente questo profumo della focaccia con rosmarino. Questa che mi vide piangere disse: ma che c'hai, stai male? Mi venivano fuori delle lacrime. Adesso me ne vergogno a ricordarlo, ma l'odore di quella pizza che non sentivo da almeno 30 anni mi colpì talmente nel profondo e venivano fuori le lacrime, ma non per dolore, perché non lo so, perché esce fuori qualcosa che c'hai dentro e ti dimentichi. Chissà se queste cose poi ci riverranno tutte assieme nel momento fatale. Davide da Bologna, pronto? Sì, eccomi. Vuol darmi via? Salve. Sì, vai, allora, è già partito. Sì. Allora, il ricordo è quello delle lasagne di Pasqua, che erano tutte particolari perché venivamo a riaprire la casa in collina che era chiusa da tanti mesi. E la casa aveva pochi accessori, non aveva il forno, quindi si riscaldavano in una teglia coperta da un coperchio con un termostato che fungeva da forno. Le bruciacchiava sopra e sotto. Io da quel giorno non ho mai più mangiato una lasagna con la besciamella, erano straordinari. Lo so, la crosta della lasagna bruciacchiata è qualcosa che oggi non troveremo mai più nelle perfette lasagne in cui il capocuoco star dice l'ha impiattato male. Questo termine impiattamento che appartiene a una fase già anziana della mia vita, mai sentito la parola impiattamento, l'ha impiattata male, giù quei rivolini di bava di alieno verde, rossa e gialla per far vedere che sei bravi. Devo dire sì, ho un profondo irrazionale disprezzo verso la cucina televisiva. Vanna da Forlì. Ah, buongiorno. Pronta? Pronto, sì. Io ricordo quando con la mamma portavamo le robe al forno, ci si portavano il giorno prima, generalmente il coniglio e le ciambelle, c'erano tutte le donne del quartiere. E si parlava, uno faceva una cosa. E poi noi tutte bambine al sabato mattina davanti alla chiesa aspettavamo mezzogiorno che sciogliessero le campane. Tutte le campane di Forlì, io abitavo in centro, suonavano ed era un'emozione fortissima, questa me la ricordo. E quando tornavamo sabato mattina a prendere le cose al forno cotto in queste teglie enormi, mio babbo faceva il camionista e portava la frutta e verdura al mercato generale di Milano, quindi non si è mai mancato. Portava delle cassette di roba per Pasqua e noi facevamo dei cestini per le donne lì attorno, le famiglie che non avevano quasi niente. Mi viene quasi, sono commosso. Sì, ma era un giorno di condivisione la Pasqua, devo dire, perché poi la Pasquetta si usciva, si andava a mangiare fuori, ma non è come adesso, una sorta di frenesia di correre alla seconda casa. Si toglievano i sedili alla 600, al 1100, si mettevano come divanetto a bordo strada e si apriva il tavolinetto da picnic. Era questa idea di una sorta di civilizzazione che ci veniva dai liberatori e poi dai nostri sostentatori, parlo degli anni del boom, che ci faceva pensare che in fondo mettere questi tavolinetti, queste tovagliette, questi sedili fuori era il segno del benessere. E ci sentiva generosi verso gli altri, molto di più, perché ci sentiva molto fortunati. Amalia da Roma, pronta? Vai. Buongiorno, simpaticissimo, condivido il suo disprezzo per la cucina televisiva. Senta, io da bambina avevo decorato 12 uova trasformandole in vari personaggi e poi in famiglia, in allegria con tutta la famiglia, dove uno zio suonava la fisarmonica, l'altro il mandolino e io cantavo usando una pentola come microfono. È stata una cosa... Una festa allegrissima. Cioè lei infilava la testa dentro una pentola che no, amplificava un po'. La usavo tipo microfono. Cioè, ma quanti anni aveva? Quanti anni aveva? Avevo avuto 12 anni. E quindi la pentola amplificava. Beh, oggi abbiamo apparati fantastici. Amplificava la voce. Adesso, la prossima volta, se adesso non fosse la fine quasi la trasmissione, correrei in cucina, prenderei una pentola, vorrei vedere l'effetto della mia voce dentro una pentola. Non eravamo venuti muniti di microfono, purtroppo. Beh, è il minimo, stando a casa, parlando da casa, almeno un microfonino devo averlo. Allora, Laura da Livorno, vai. Sì, centriamo allora, ancora. Ricordo, sì, un'altra, dai. È un ricordo da bambina. Una Pasqua che pioveva tanto, ma a me avevano regalato un paio di cenerentoline con un fiocco meraviglioso bianche, La mia mamma non me le voleva far mettere per andare in chiesa a benedire le uova. Mi sono impuntata così tanto che ce l'ho fatta. Sono andata in chiesa a benedire le uova, il mio sacchettino con il tovagliolo bianco, e poi sono tornata a casa e sono stata contenta di avercela fatta. E questo è il mio ricordo. E poi anche un profumo meraviglioso delle schiacciate che si fanno in Toscana. Senta, ma le cenerentoline che sono? Che scarpette? Le scarpe, le cenerentoline. Finalmente mi avevano regalato finalmente un paio di scarpe decenti. Non avevo più le scarpine da bimba. Quelle certo, erano Laura, quasi da ragazzina. Il segno della mestizia fanciullesca. Le uniche scarpe decenti si chiamano cenerentoline, che dai cenerentola, di ragazza messa sempre in un angolo a far la guardia al focolare. Vabbè, dai, ci siamo riusciti comunque a farvi sentire un po' di Pasqua nei nostri ricordi. Godeteveli in questa giornata, che saremo tutti un po' più soli. Alla prossima.